Io sono sicuro che lei non considera Berlusconi un omofobo, non considera uno che, anzi, Berlusconi ha una cultura da questo punto di vista piuttosto liberale Anche in questo. perché sono tutti gli ambienti che frequenta, No, dico le appunto, persone di cui si è serve, abbastanza sorprendente, direttori anzi. settimanali di casa, no, non so, voglio dire, mi sembrerebbe strano, ma qui secondo me è un segno di perdita di controllo, come nel caso. Addirittura. No, secondo me si sente molto minacciato e deve ricorrere proprio a come se adesso non agiterà di nuovo lo spettro dei comunisti, cioè voglio dire, per trovare qualcuno che lo sostenga deve inventare dei nemici tremendi. Allora, anche questa storia qui deve far riferimento alle cose più basse. Io devo dire che non mi stupisco tanto che lui abbia detto questo, perché siccome utilizza continuamente degli stereotipi, a cominciare appunto da quelli dei comunisti cattivi, che adesso non ci sono più tanto, adesso potrebbero essere gay. No, io però su questo mi stupisco, devo dire la verità. Ma io trovo peggio della frase di Berlusconi questa frase della Santanchè. Sono certa che tutti i genitori italiani sperano di avere figli eterosessuali. Daniela Santanchè, tutti No, vorrebbero figli. Santanchè è al di sotto di ogni livello umano. Io Vabbè, adesso. no, quando in un dibattito del Santanchè io vado via subito, anzi non ci vado. È un mostro, però insomma, Un mostro, è un mostro. è un mostro di Uno, certamente. banalità e di fesseria totale e di ipocrisia assoluta. Perché poi, oltretutto, appunto, ma voglio dire, in una situazione in cui il Presidente del Consiglio può ancora dire una cosa del genere, è fin troppo ovvio che le mamme e le spole d'Italia preferiscono che i loro figli siano Sì, ma eterosessuali. infatti è una cosa ovvia.